persone che ho conosciuto, la gente che ho incontrato e quella che ho amato. Sento che mi scorrono le vene, le persone che ho conosciuto, la gente che ho incontrato e quella che ho amato. Ama per sempre, solo così. Che ho imparato, ti racconterò cosa ho vissuto, ti racconterò del bacio dato, ti racconterò lo schiaffo preso. Chiedimi cose che ho imparato, ti racconterò cosa ho vissuto, ti racconterò del bacio dato, ti racconterò lo schiaffo preso. Ama per sempre, solo tu. Solo così vibra veramente. Solo così, solo così. Solo tú.